Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Seconda puntata. Marcello aspettò il momento in cui la madre, dopo che si era coricato, veniva in camera a dargli la buonanotte. Era questo uno dei pochi momenti che gli riusciva di vederla da solo a solo. Il più delle volte, durante i pasti o nelle rare passeggiate coi genitori, il padre era sempre presente. Marcello, sebbene non avesse distinto molta fiducia nella madre, l'amava. E forse anche più che amarla, l'ammirava in maniera perplessa e invaghita, come si ammira una sorella maggiore dalle abitudini singolari e dal carattere estroso. La madre di Marcello, che si era sposata giovanissima, era rimasta moralmente e anche fisicamente una fanciulla. Inoltre, pur non avendo alcuna confidenza con il figlio di cui si occupava pochissimo a causa dei numerosi impegni mondani, ella non aveva mai separato la propria vita da quella di lui. Così Marcello era cresciuto in un continuo tumulto di entrate ed uscite precipitose, di vestiti provati e gettati via, di interminabili quanto frivole conversazioni al telefono, di bizze con sarti e fornitori, di dispute con la cameriera, di continue variazioni di umore per i più futili motivi. Marcello poteva entrare in camera di sua madre in qualsiasi momento, spettatore curioso e ignorato di un'intimità in cui non aveva alcun posto. Qualche volta la madre, come riscuotendosi dall'inerzia per un improvviso rimorso, decideva di dedicarsi al figlio e se lo portava dietro da una sarta o da una modista. In queste occasioni, costretto a passare lunghe ore seduto sopra uno sgabello mentre la madre provava cappelli e vestiti, Marcello quasi rimpiangeva la solita turbinosa indifferenza. Quella sera, come comprese subito, la madre aveva più fretta del solito e infatti, prima ancora che Marcello avesse avuto il tempo di sormontare la propria timidezza, ella gli voltò le spalle avviandosi attraverso la camera buia alla porta rimasta socchiusa. Ma Marcello non intendeva aspettare ancora un giorno il giudizio di cui aveva bisogno. Tirandosi a sedere sul letto, chiamò con voce forte «Mamma!». La vide voltarsi dalla soglia con gesto quasi infastidito. «Che c'è, Marcello?» ella domandò, poi avvicinandosi di nuovo al letto. Ora stava in piedi presso di lui, in controluce, bianca e esile nel nero abito scollato. Il viso fine e pallido, incorniciato di capelli neri, era in ombra, non tanto però che Marcello non vi distinguesse un'espressione scontenta, frettolosa e impaziente. Tuttavia, trasportato dal suo impulso, egli annunziò «Mamma, devo dirti una cosa». «Sì, Marcello, ma fa presto, la mamma deve andare via, il papà sta aspettando». Intanto con le due mani armeggiava sulla nuca, intorno il fermaglio della collana. Marcello voleva rivelare alla madre la strage delle lucertole e domandarle se aveva fatto male. Ma la fretta materna gli fece cambiare idea, o meglio, modificare la frase che aveva preparato in mente. Le lucertole gli parvero ad un tratto animali troppo piccoli e insignificanti per poter fermare l'attenzione di una persona così distratta. Lì per lì, non sapeva neppure lui perché, inventò una bugia ingrandendo il proprio delitto. Sperava, con l'enormità della colpa, di riuscire a colpire la sensibilità materna che in maniera oscura indovinava ottusa e inerte. Disse con sicurezza che lo meravigliò: «Mamma, ho ucciso il gatto». In quel momento la madre era riuscita finalmente a fare incontrare le due parti del fermaglio. Le mani riunite sulla nuca, il mento inchiodato sul petto, ella guardava a terra e ogni tanto, per l'impazienza, batteva il tacco sul pavimento. «Ah, sì», disse con voce incomprensiva, come svuotata di ogni attenzione dallo sforzo che stava facendo. Marcello ribadì, mal sicuro: L'ho ucciso con la fionda. Vide la madre scuotere il capo con disappunto e poi togliere le mani dalla nuca, tenendo in una la collana che non era riuscita a chiudere. «Questo maledetto fermaglio!» ella proferì con rabbia. «Marcello, da bravo, aiutami a mettere la collana!» Ella sedette sul letto, di sbieco, le spalle al figlio, soggiungendo con impazienza «Ma sta attento a far scattare il fermaglio, altrimenti si aprirà di nuovo!» Pur parlando, gli presentava le spalle magre, nude fino alle reni, bianche come la carta nella luce che veniva dalla porta. Le mani sottili, dalle unghie aguzze e scarlatte, tenevano il monile sospeso sulla nuca delicata, ombreggiata di peluria ricciuta. Marcello si disse che una volta attaccata la collana, ella l'avrebbe ascoltato con maggiore pazienza. Sporgendosi, prese i due capi e li saldò con un solo scatto, ma la madre si levò subito in piedi e disse, chinandosi a sfiorargli il viso con un bacio, «Grazie, ora dormi, buonanotte». Prima ancora che Marcello avesse potuto trattenerla con un gesto, con un grido, era già scomparsa. Il giorno dopo il tempo era caldo e rannuvolato. Marcello, dopo aver mangiato in silenzio tra i due genitori silenziosi, scivolò di soppiatto giù dalla seggiola e per la porta finestra uscì nel giardino. Come il solito, la digestione provocava in lui un torbido malessere, tutto mischiato di turgida e riflessiva sensualità. Camminando piano, quasi in punta di piedi sulla ghiaia scricchiolante, all'ombra degli alberi fervida di insetti, andò fino al cancello e guardò di fuori. Gli apparve la strada, così nota, in leggera pendenza, fiancheggiata da due file di alberi del pepe, di un verde piumoso e quasi lattescente, deserta a quell'ora stranamente buia per via delle basse nuvole nere che ingombravano il cielo. Di rimpetto si intravedevano altri cancelli, altri giardini, altre ville simili alla sua. Dopo aver osservato con attenzione la strada, Marcello si staccò dal cancello, trasse di tasca la fionda e si chinò verso terra. Tra la ghiaia minuta erano frammisti alcuni ciottoli bianchi più grossi. Marcello ne prese uno della grandezza di una noce, lo inserì nel disco di cuoio della fionda e prese a passeggiare lungo il muro che separava il suo giardino da quello di Roberto. La sua idea, o meglio il suo sentimento, era che egli si trovava in stato di guerra con Roberto e che doveva sorvegliare con la massima attenzione l'edera che ricopriva il muro di cinta e, al minimo movimento, far fuoco, ossia scagliare il sasso che stringeva nella fionda. Era un gioco in cui esprimeva insieme il rancore contro Roberto, che non aveva voluto essergli complice nella strage delle lucertole, e l'istinto belluino e crudele che l'aveva spinto alla strage medesima. Naturalmente Marcello sapeva benissimo che Roberto, solito a dormire a quell'ora, non lo spiava da dietro il fogliame dell'edera, e tuttavia, pur sapendolo, agiva con serietà e conseguenza, come se fosse stato sicuro che invece Roberto ci fosse. L'edera, vecchia e gigantesca, saliva fino alle punte delle picche della cancellata e le foglie, sovrapposte le une alle altre, grandi, nere, polverose, simili a volanti di trina su un petto tranquillo di donna, stavano ferme e flosce nell'aria pesante e senza vento. Un paio di volte gli parve che un leggerissimo fremito facesse palpitare il fogliame, o meglio, inventò a se stesso di aver veduto questo fremito e tosto, con soddisfazione intensa, scagliò il sasso nel fitto dell'edera. Subito dopo il colpo si chinava in fretta, raccoglieva un altro sasso e si rimetteva in posizione di combattimento, le gambe larghe, le braccia stese in avanti, la fionda pronta a scattare. Non si poteva mai sapere. Roberto poteva essere dietro le foglie, in atto di prendere la mira contro di lui, con il vantaggio di essere nascosto, mentre lui, invece, era completamente scoperto. Così, in questo gioco, giunse in fondo al giardino, là dove aveva ritagliato lo sportello nel fogliame dell'edera. Qui si fermò, guardando con attenzione al muro di cinta. Nella sua fantasia, la casa era un castello, la cancellata nascosta dal rampicante, le mura fortificate e il pertugio, una breccia pericolosa e facilmente valicabile. Allora, improvvisamente, e questa volta senza possibilità di dubbio, vide le foglie muoversi da destra a sinistra, tremando e oscillando. Sì, ne era certo. Le foglie si muovevano e qualcuno doveva pur farle muovere. Tutto in un sol momento pensò che Roberto non c'era, che era un gioco, che visto che era un gioco, lui poteva tirare il sasso e al tempo stesso che Roberto c'era e lui non doveva tirare il sasso se non voleva ammazzarlo. Poi, con subitanea e spensierata decisione, tese gli elastici e scagliò il sasso nel folto delle foglie. Non contento, si chinò, febbrilmente incastrò un altro sasso nella fionda, lo tirò, ne prese un terzo, tirò anche quello. Ormai aveva messo da parte scrupoli e timori e non gli importava più che Roberto ci fosse o non ci fosse, provava soltanto un senso di eccitazione ilare e bellicoso. Finalmente, ansimante, dopo aver ben bene sforacchiato il fogliame, lasciò cadere la fionda in terra e si inerpicò fino al muro di cinta. Come aveva preveduto e sperato, Roberto non c'era. Ma le sbarre della cancellata erano molto larghe e permettevano di sporgere il capo nel giardino attiguo, punto da non sapeva che curiosità. Si affacciò e guardò in basso. Dalla parte del giardino di Roberto non c'era rampicante, bensì un'aiuola coltivata a iris che correva tra il muro e il vialetto ghiaiato. Allora, proprio sotto i suoi occhi, tra il muro e la fila di iris bianchi e violetti, disteso su un fianco, Marcello vide un grosso gatto grigio. Un terrore insensato gli tagliò il respiro, poiché notò la posizione innaturale della bestia. Coricata di lato, con le zampe allungate e rilasciate, il muso abbandonato sul terriccio, il pelo, folto e di un grigio azzurrognolo, appariva leggermente irto e arruffato e insieme inerte come le piume di certi uccelli morti che aveva osservato tempo addietro sul tavolo di marmo della cucina. Ora il terrore cresceva. Balzò a terra. Sfilò da un roseto la canna di sostegno, tornò ad inerpicarsi e, sporgendo il braccio tra le sbarre, si ingegnò di pungere il fianco al gatto con la punta terrosa della canna. Ma il gatto non si mosse. Tutto ad un tratto gli iris dagli alti gambi verdi, dalle corolle bianche e violette inclinate intorno il grigio corpo immobile, gli parvero mortuari, come tanti fiori disposti da una mano pietosa intorno a un cadavere. Gettò via la canna e, senza curarsi di rimettere a posto l'edera, saltò a terra. Si sentiva in preda a diversi terrori e il suo primo impulso fu di correre a chiudersi in un armadio, in un ripostiglio, dovunque, insomma, ci fosse buio e clausura, per sfuggire a se stesso. Provava terrore prima di tutto per aver ucciso il gatto e poi, forse in misura maggiore, per avere annunziato quest'uccisione alla madre la sera prima. Segno indubbio che in un modo misterioso e fatale era predestinato a compiere atti di crudeltà e di morte. Ma il terrore che destavano in lui la morte del gatto e la premonizione significativa di questa morte era di gran lunga superato dal terrore che gli ispirava l'idea che, uccidendo il gatto, in realtà aveva avuto intenzione di uccidere Roberto. Soltanto il caso aveva voluto che il gatto fosse morto in luogo dell'amico, un caso però non privo di senso, che non si poteva negare che ci fosse stata progressione dai fiori alle lucertole, dalle lucertole al gatto e dal gatto all'omicidio di Roberto, pensato e voluto seppure non eseguito, ma tuttora eseguibile e forse inevitabile. Così egli era un anormale, non poteva fare a meno di pensare, o meglio di sentire, con una viva fisica consapevolezza di questa anormalità, un anormale segnato da un destino solitario e minaccioso e ormai avviato per una strada sanguigna sulla quale nessuna forza umana avrebbe potuto fermarlo. Tra questi pensieri si aggirava freneticamente nel breve spazio tra la casa e il cancello, levando ogni tanto gli occhi alle finestre del villino, quasi con desiderio di vedervi apparire la figura della sua frivola e stordita madre. Ma ormai ella non poteva più far nulla per lui, seppure era mai stata capace di fare qualche cosa. Quindi, con subitanea speranza, corse di nuovo in fondo al giardino, si arrampicò fino al muro e si affacciò tra le sbarre della cancellata. Quasi si illudeva di ritrovare vuoto il luogo dove prima aveva veduto il gatto esanime. Invece il gatto non se n'era andato. Era sempre là, grigio e immobile nella corona funeralesca degli iris bianchi e violetti. E la morte era accusata, con un senso macabro di carogna in putrefazione, da una nera striscia di formiche che, partendo dal viale, risalivano l'aiuola fino al muso, anzi agli occhi della bestia. Guardava, e tutto ad un tratto, quasi per sovraimpressione, gli parve di vedere, in luogo del gatto, Roberto, anche lui disteso tra gli iris, anche lui esanime, con le formiche che andavano e venivano dagli occhi spenti e dalla bocca semiaperta. Con un brivido di raccapriccio si tolse da questa orribile contemplazione e saltò giù, ma questa volta ebbe cura di tirare al suo posto lo sportello di edera che adesso, insieme al rimorso e al terrore di se stesso, affiorava anche la paura di essere scoperto e punito. Tuttavia, mentre le temeva, sentiva che al tempo stesso desiderava questa scoperta e questa punizione, se non altro per essere fermato a tempo sulla china sdrucciolevole in fondo alla quale gli sembrava inevitabile che dovesse aspettarlo l'omicidio. Ma i genitori non l'avevano mai punito, che egli ricordasse, e questo non tanto per un concetto educativo che escludesse la punizione, quanto, come capiva vagamente, per indifferenza. Così alla sofferenza di sospettarsi autore di un delitto e soprattutto capace di commetterne altri più gravi, si aggiungeva quella di non sapere a chi rivolgersi per farsi punire e di ignorare persino quale potesse essere la punizione. Marcello si rendeva conto, oscuramente, che lo stesso meccanismo che l'aveva spinto a confidare la propria colpa a Roberto nella speranza di sentirsi dire che non era una colpa ma una cosa comune che tutti facevano, adesso gli suggeriva di fare la stessa rivelazione ai genitori, nell'opposta speranza di vederli esclamare con indignazione che aveva commesso un crimine orrendo per il quale doveva espiare una pena adeguata. E poco gli importava che nel primo caso l'assoluzione di Roberto l'avrebbe incoraggiato a ripetere l'azione, che nel secondo caso gli avrebbe invece attirato una severa condanna. In realtà, come capiva, in ambedue i casi egli voleva uscire dall'isolamento terrificante dell'anormalità a tutti i costi e con qualsiasi mezzo. Forse si sarebbe deciso a confessare ai genitori l'uccisione del gatto se quella stessa sera a cena non avesse avuto la sensazione che sapevano già ogni cosa. Come infatti si fu seduto a tavola, notò con un senso misto di sgomento e di malcerto sollievo che il padre e la madre parevano ostili e di cattivo umore. La madre, il viso puerile atteggiato ad un'espressione di esagerata dignità, se ne stava dritta, gli occhi bassi, in un silenzio chiaramente sdegnoso. Di fronte a lei, il padre mostrava, per segni diversi ma non meno parlanti, analoghi sentimenti di malumore. Il padre, di molti anni più vecchio della moglie, dava spesso a Marcello la sensazione sconcertante di essere accomunato insieme con sua madre in una stessa aria infantile e soggetta, come se ella non gli fosse stata madre, ma sorella. Era magro, con un viso secco e rugoso, raramente illuminato da brevi risate senza gioia, nel quale erano notevoli due tratti legati da un nesso indubbio: lo scintillio inespressivo, quasi minerale, delle pupille sporgenti e il guizzo frequente sotto la pelle tirata della guancia di non si capiva che nervo frenetico. Forse dai molti anni passati nell'esercito egli aveva conservato il gusto per i gesti precisi, per gli atteggiamenti controllati, ma Marcello sapeva che quando suo padre era adirato precisione e controllo diventavano eccessivi, cangiandosi nel contrario, ossia in una strana violenza contenuta e puntuale, rivolta, si sarebbe detto, a caricare di significato i gesti più semplici. Ora, quella sera, a tavola, Marcello notò subito che il padre sottolineava con forza, quasi a richiamarvi sopra l'attenzione, azioni abituali di nessuna importanza. Prendeva, per esempio, il bicchiere, beveva un sorso e poi lo rimetteva a posto con un colpo forte sulla tavola. Cercava la saliera, ne toglieva un pizzico di sale, poi giù deponendola un altro colpo. Afferrava il pane, lo spezzava e quindi lo riposava con un terzo colpo, oppure, come invaso da una subitanea smania di simmetria, si dava a inquadrare coi soliti colpi il piatto tra le posate, in modo che coltello, forchetta e cucchiaio si incontrassero d'angolo retto intorno il circolo della scodella. Se Marcello fosse stato meno preoccupato della propria colpevolezza, si sarebbe accorto facilmente che questi gesti, così densi di energia significativa e patetica, erano rivolti non già a lui, ma a sua madre, la quale, infatti, ad ognuno di quei colpi si rinsaccava nella propria dignità con certi sospiri di sufficienza e certe alzate di sopracciglia piene di sopportazione. Ma la sua preoccupazione lo accecava, così che non dubitò che i genitori sapessero ogni cosa. Certamente Roberto, da quel coniglio che era, aveva fatto la spia. Aveva desiderato la punizione, ma adesso, vedendo i genitori così corrucciati, gli venne un improvviso ribrezzo della violenza di cui sapeva capace suo padre in simili circostanze. Come le manifestazioni di affetto della madre erano sporadiche, casuali, dettate evidentemente più dal rimorso che dall'amor materno, così le severità paterne erano improvvise, ingiustificate, eccessive, suggerite, si sarebbe detto piuttosto, dal desiderio di rimettersi in pari dopo lunghi periodi di distrazione che da un'intenzione educativa. Tutto ad un tratto, su una lagnanza della madre o della cuoca, il padre ricordava di avere un figlio, urlava, dava in smanie, lo percuoteva. Soprattutto le percosse spaventavano Marcello, perché il padre aveva al mignolo un anello con un castone massiccio che durante queste scene, non si sa come, si trovava sempre voltato dalla parte della palma, aggiungendo così alla durezza umiliante dello schiaffo un dolore più penetrante. Marcello sospettava che il padre voltasse apposta indentro il castone, ma non ne era sicuro. Intimidito, spaventato, incominciò ad architettare in fretta e in furia una bugia plausibile. Lui non aveva ucciso il gatto, era stato Roberto, e infatti il gatto si trovava nel giardino di Roberto, e come avrebbe fatto lui ad ammazzarlo attraverso l'edera e il muro di cinta? Ma poi, improvvisamente, ricordò che la sera avanti aveva annunziato alla madre l'uccisione del gatto, che poi in effetti era venuta il giorno dopo, e capì che qualsiasi bugia gli era preclusa. Per quanto distratta, sua madre aveva certamente riferito la sua confessione al padre, e questi non meno certamente aveva stabilito un nesso tra la confessione e le accuse di Roberto, e così non c'era alcuna possibilità di smentita. A questo pensiero, passando dall'uno all'altro estremo con rinnovato impulso, desiderò la punizione, purché venisse presto e fosse decisiva. Quale? Ricordò che Roberto un giorno aveva parlato di collegi come di luoghi dove i genitori mettevano i figli discoli per punizione e si sorprese a desiderare vivamente questo genere di pena. Era l'inconsapevole stanchezza della vita familiare disordinata e poco affettuosa che si esprimeva in questo desiderio, non soltanto facendogli vagheggiare ciò che i genitori avrebbero considerato un castigo, ma anche inducendolo a truffare se stesso e il proprio bisogno di questo castigo con il calcolo quasi furbo che in tal modo avrebbe al tempo stesso calmato il proprio rimorso e migliorato il proprio stato. Questo pensiero gli suggerì subito delle immagini che avrebbero dovuto essere scuoranti e invece gli riuscivano grate. Un severo, freddo edificio grigio dai finestroni sbarrati da inferriate, camerate gelide e disadorne con file di letti, allineati sotto alti muri bianchi, aule smorte, piene di banchi con la cattedra in fondo, corridoi nudi, scale buie, porte massicce, cancelli invalicabili, tutto, insomma, come in una prigione, eppure tutto preferibile alla libertà inconsistente, angosciosa, insostenibile della casa paterna. Persino l'idea di portare un uniforme di rigatino e di aver la testa rasata come i collegiali che gli accadeva talvolta di incontrare incolonnati per le strade, perfino quest'idea umiliante e quasi ripugnante gli riusciva grata nella sua presente disperata aspirazione ad un ordine e ad una normalità purché sia. Tra queste fantasticherie non guardava più al padre, ma alla tovaglia bagliante di luce bianca su cui ogni tanto si abbattevano gli insetti notturni che dalla finestra spalancata venivano a cozzare contro il paralume della lampada. Poi alzò gli occhi e fece appena in tempo a vedere, proprio dietro suo padre, sul davanzale della finestra, il profilo di un gatto. Ma la bestia, prima che egli avesse potuto distinguerne il colore, saltò giù, attraversò la sala da pranzo e scomparve dalla parte della cucina. Sebbene non ne fosse del tutto sicuro, tuttavia il cuore gli si gonfiò di gioiosa speranza al pensiero che potesse essere il gatto che poche ore prima aveva veduto steso immobile tra gli iris nel giardino di Roberto. E fu contento di questa speranza, segno che dopo tutto gli premeva più la vita dell'animale che il proprio destino. «Il gatto!» esclamò con voce forte, e poi, gettando il tovagliolo sulla tavola e stendendo una gamba fuori della seggiola, «Papà, ho finito, posso alzarmi?» «Tu stai al tuo posto», disse il padre con voce minacciosa. Marcello, intimidito, arrischiò, «Ma il gatto è vivo!» «Ti ho già detto di stare al tuo posto», ribadì il padre. «Quindi», come se le parole di Marcello avessero infranto anche per lui il lungo silenzio, si voltò verso la moglie dicendo: «Allora, di qualcosa, parla!» «Non ho nulla da dire», ella rispose con ostentata dignità, le palpebre basse, la bocca sdegnosa. Era vestita da sera, con un abito nero scollato. Marcello notò che stringeva tra le dita magre un piccolo fazzoletto che portava frequentemente al naso. Con l'altra mano afferrava e lasciava ricadere sulla tavola un pezzo di pane, ma non con le dita, bensì con le punte delle unghie, come un uccello. «Ma di quello che hai da dire, parla perbacco!» «Con te non ho nulla da dire». Marcello cominciava appena a capire che non era l'uccisione del gatto il motivo del malumore dei genitori, quando improvvisamente tutto parve precipitare. Il padre ripeté ancora una volta: «Parla, per Dio!» La madre, per tutta risposta, alzò le spalle. Allora il padre prese il bicchiere a calice davanti al piatto e, gridando forte: «Vuoi parlare o no?», lo sbatté con violenza sulla tavola. Il bicchiere si ruppe. Il padre, con un'imprecazione, portò la mano ferita alla bocca. La madre, spaventata, si levò da tavola e si avviò in fretta verso la porta. Il padre si succhiava il sangue della mano quasi con voluttà. inarcando le sopracciglia al di sopra della mano, ma vedendo la moglie andarsene, interruppe di succhiare e le gridò: «Ti proibisco di andartene, hai capito?» Come risposta, venne il colpo della porta, sbattuta con violenza. Il padre si alzò anche lui e si slanciò verso la porta. Eccitato dalla violenza della scena, Marcello lo seguì. Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.